La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 99. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Gli articoli 99 e 100 della Costituzione riguardano gli organi ausiliari, cioè quegli organi che danno ausilio tecnico al governo. In particolare sono il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. L'articolo 99 riguarda il CNEL. Il CNEL è diventato molto famoso nell'anno 2016 perché durante il progetto di riforma costituzionale, poi votato il 4 dicembre, è stato spesso additato come esempio dell'anacronismo costituzionale, cioè di un organo creato per determinati fini, ma che, non essendo mai riuscito a raggiungere questi stessi fini, andava semplicemente abrogato ed eliminato. Il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ecco la sigla CNEL, ed è composto in rappresentanza delle categorie produttive. In fondo, l'Assemblea Costituente aveva pensato di creare, mediante il CNEL, una specie di terza Camera, cioè una Camera dei rappresentanti del lavoro. Sappiamo bene che la scelta del Costituente è stata quella di fondare la Repubblica Italiana sul lavoro e quindi, come tale, serviva una rappresentanza diretta dei lavoratori in un organo di ausilio e di coordinamento per quello che riguardava le attività in materia di lavoro. Infatti, come recita l'articolo 99, il CNEL è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che sono attribuite dalla legge. Ha inoltre iniziativa legislativa e contribuisce all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi stabiliti per legge. Quindi, i costituenti hanno affidato al CNEL funzioni molto importanti, che tuttavia nella prassi non hanno mai attecchito veramente e quindi il CNEL è rimasto un organo marginale. Probabilmente in sede di revisione costituzionale potrebbe anche essere opportuno eliminare il CNEL e pensare ad altre forme di rappresentanza dei lavoratori nell'ambito del sistema politico. Oppure si potrebbe anche pensare ad una riforma legislativa che possa attribuire nuove funzioni al CNEL e quindi rinvigorirne l'attività.